Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Visto che sono una donna ex in carriera che ha rivisto le sue posizioni sull'emancipazione femminile, vorrei tanto dire che spesso mi piacerebbe essere una casalinga full time anziché una lavoratrice a tempo pieno e casalinga part time gioco forza. Le casalinghe sono le donne che fanno le casalinghe sabato alla domenica, quelle di tutti i giorni non esistono più perché tutte le donne ormai lavorano. Sono una casalinga di Perugia, fiera di esserlo, felice perché? Perché rendo felici i miei cari. Io sono bresciana e faccio la psicologa, ma mi sento molto casalinga. Essere casalinga vuol dire, secondo me, essere in contatto con la persona, essere in contatto con l'esperienza che si fa esserci in questo mondo in cui vale solo il fare. La fotografia che ha fatto l'Istat sulla popolazione femminile italiana è stata variamente interpretata dai giornali, ma non chiedeva di meglio nessuno che in questo momento di stracco stimolo informativo qualcuno potesse darsi da fare in punta di penna per dire non ci sono più le casalinghe, le italiane sono evolute, o al contrario, viva le casalinghe, che nostalgia delle casalinghe, quanto era bello il tempo delle casalinghe. Beh, io vorrei cominciare questa mattina con un'analisi reale, al di là di ogni deformazione e ogni pregiudizio su quelle che sono le fonti, quindi le fonti liste, per capire veramente cosa è accaduto nel numero delle casalinghe italiane, poi capire chi sono queste casalinghe italiane. Una volta però che l'abbiamo definite, vorrei sollecitare il nostro pubblico e soprattutto la parte femminile del nostro pubblico nell'aiutarmi a definire il loro concetto di essere casalinga. Allora, la casalinga nell'accezione più tradizionale è la donna che sta in casa. La mattina si alza, fa la colazione, saluta tutti, poi si mette a pulire casa, poi va a fare la spesa, poi prepara il pranzo, poi rigoverna la cucina, poi mette a posto, poi pensa ai figli, poi li prende, poi li riporta, poi la sera infila le ciabatte al marito e gli mette il bicchierino davanti, poi la sera rimette a posto la cucina e poi una volta all'anno magari, non lo so, si dà la botta di vita che è andare a un matrimonio, a un battesimo, a una crisima. Ecco, questa è la versione tradizionale denigratoria del rapporto fra la donna italiana e il mestiere della casalinga. Poi esistono altre versioni, donne che lavorano, parlo rispetto alle mie esperienze, lavorano nella loro professione, hanno la dignità e il privilegio di vivere sole, hanno un piccolo aiuto in casa in base a quello che si possono permettere con il loro lavoro, che può essere un giorno a settimana, due giorni a settimana, tre giorni, una donna fissa, comunque sia, la sera tornano a casa, sono sole e organizzano comunque la loro vita. Sono comunque in parte casalinghe, dedicano il fine settimana comunque a quelli che erano i lavori di casa, hanno ancora una loro tradizione acquisita, perché hanno delle madri che magari hanno loro insegnato a stirare le camicie, a pulire per terra, a fare qualche piatto, quindi in qualche maniera conservano nel loro DNA dei residui, delle memorie dell'essere casalinghe. Ma probabilmente sarà l'ultima generazione definita in questa maniera, perché avremo una generazione di esseri umani che faranno esattamente le stesse cose, si occuperanno dei lavori di casa, della gestione di casa, di alcuni orpelli legati alla loro capacità, possibilità, volontà, desiderio di procreare, quindi occuparsi anche di una prole, e faranno tutt'altre cose. Quello sarà il vero declino, il vero crollo della casalinga. Al momento di questo non stiamo sicuramente parlando, al di là di quello che hanno celebrato molti giornali. Dottoressa Laura Sabbadini, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lei è dirigente di ricerca Istat e le chiedo questa mattina però dice esattamente la sintesi di questa ricerca, perché ho visto che è stata interpretata a seconda del punto di vista, della visione sociale, dell'inclinazione politica dei vari commentatori in maniera molto diversa, anche abbastanza colorita. Sono scomparse le casalinghe in Italia? Sono calate? Non esistono più? Oppure non è così? Allora, le casalinghe in Italia non sono scomparse, tant'è che sono 7.338.000, quindi è un numero cospicuo. Sono diminuite? Sì, sono diminuite nell'arco di 10 anni di 518.000, però questo non vuol dire che saranno quelle più vecchie che sono morte, detto in maniera molto cruda. No, diciamo che probabilmente c'è anche il fatto che ci sono meno ingressi nella condizione di casalinga, perché sì, una cosa emerge abbastanza evidente, che l'età media delle casalinghe è alta, è 60 anni, quindi questo vuol dire che il numero di donne giovani che si trovano nella condizione di casalinghe è più basso che non in passato. Poi posso fare una domanda? Viene subito la curiosità. Sì. Poi lei è una ricercatrice, me la declina a seconda dei dati, perché voglio che sia un giudizio corroborato dalla scienza. Ma non è che oggi anche una ragazza disoccupata che cerca lavoro, fa lavori part time, che comunque gestisce una casa, non si chiama più casalinga, non vuole essere chiamata più casalinga, anche se a tutti gli effetti quello fa? Una disoccupata è una disoccupata, attenzione. Allora, se arriviamo a definire casalinga, noi abbiamo escluso tutte le donne che hanno svolto almeno un'ora di lavoro nella settimana di riferimento, tutte le donne che sono studentesse e tutte le donne che sono disoccupate. Disoccupate vuol dire che hanno fatto almeno un'azione di ricerca attiva, quindi diciamo che tutte queste donne non vengono considerate come casalinghe, anche se noi sappiamo che tra le lavoratrici ci sono molte lavoratrici dedicano moltissime ore, no? Quello che avevo detto familiare. Prima, ci sono donne che comunque tornano a casa, quello fanno. Esatto, quindi noi qui stiamo parlando di quelle che fanno casalinghe a tempo pieno, stiamo parlando delle donne che non hanno un lavoro, non lo stanno cercando attivamente, quindi non sono disoccupate, non studiano, quindi non sono studentesse, sono casalinghe, si definiscono tali. Ma che, quindi, chi le mantiene, a parte il lavoro che fanno? Hanno un marito o una famiglia che le sostiene? Certo, infatti la maggioranza di queste donne vive all'interno di una coppia. Vive all'interno di una coppia con figli o di una coppia senza figli. Non sono, cioè, le figlie, per capirci, le giovani, non sono giovani che vivono con i propri genitori. Le giovani sono in gran parte giovani, per esempio al nord soprattutto immigrate, marocchino, albanesi, al sud in particolare quelle con titolo di studio più basso, ma le giovani sono quelle che né studiano, né lavorano, né stanno cercando lavoro. Poi altra cosa è che una parte di loro ha smesso di cercare lavoro perché sfiduciata, e non sono poche perché sono 600.000, e quindi ha cercato il lavoro, non lo trova e si dichiara essere appunto scoraggiata perché pensa che tanto chance non ne ha perché neanche gli uomini lo trovano. Allora, dottoressa Linda Laura Sabadini, ci fermiamo soltanto un istante per dare la linea, però lei mi ha chiarito il mio dubbio fondamentale. L'essere casalinga è una condizione arcaica, deteriore, negativa dell'essere femminile, comunque del genere femminile. È una condizione da superare, che non è detto che non possa declinarsi in qualcosa che comunque corrisponda più o meno alle funzioni di una donna che si occupa dei figli e sta in casa. Ma le premesse mi ha dato lei, una donna ignorante, che non studia, è totalmente sconnessa da ogni meccanismo produttivo del paese e che fa la moglie, si occupa dei figli, secondo me è qualcosa che in un mondo civilizzato tenderà a scomparire. Ci fermiamo un istante, poi mi approfondisce meglio il concetto. Tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ma chi sono queste casalinghe a favore delle quali si è battuto tutto lo schieramento politico italiano, dall'estrema destra all'estrema sinistra? Siete voi, signora. E voi. Voi che correte da una camera all'altra del vostro appartamentino sempre in moto, sempre in faccende, sacrificando le faccende domestiche perfino l'indispensabile partita a canasta. Voi che rigovernate ogni giorno e che nel giro di 3 anni lavate una pila di piatti alta quanto la Torre Eiffel. E che chiedete ancora che il governo elevi il contributo statale, che nel disegno di legge governativo è previsto in 2 miliardi, laddove nella nostra proposta è previsto in 5 miliardi. Ciò, a nostro avviso, è necessario per ridurre i contributi da parte delle interessate. 800240024, oggi analizzando la ricerca dell'Istat cerchiamo però di definire un po' quanto ancora il concetto di casalinga sia un concetto attuale o sia un concetto piuttosto obsoleto. Stiamo cercando di capire, ma mi sembra che le indicazioni della dottoressa Laura Linda Sabadini dell'Istat vadano in direzione di quella che è una mia intuizione. Chi ancora si definisce casalinga tout court è come se avesse tagliato le connessioni con il mondo contemporaneo. vive in una condizione di totale di subordinazione comunque a un uomo che in qualche maniera lavora e quindi in parte la mantiene, il suo lavoro, la sua opera, il suo quotidiano lavorare comunque senza orario, senza interruzioni, senza gratificazioni, senza nessun strumento di incentivo, corrisponde all'antichissima definizione casalinga che abbiamo sentito riassunta in questo film pubblicitario del 61, in cui casalinghe chiedevano 4 soldi in più di contributo, ma si erano già condannate anche a lavare pile di piatti, perché allora la lavapiatti nel 61 non esisteva. Matteo, buongiorno. Chiamo solo uomini, chiamate anche donne, parliamo di casalinghe. Il punto di vista di un uomo mi sembra comunque condizionato. Comunque sentiamo, Matteo, buongiorno. Salve Nicolini, buongiorno. Sì, Nicolini, va bene, ok, andiamo avanti. Buongiorno, nulla. Mi fa piacere che dalla definizione che ha dato poco fa la dottoressa, casalinga sia ora una privilegiata. No, ho detto esattamente il contrario, è una sfigata. Allora ho inteso male, io vorrei che, qual è il privilegio? Che la casalinga fosse ora considerata una privilegiata. Ma qual è il privilegio che intuisce lei nell'essere casalinga? Il privilegio è quello di non poter permettersi di non lavorare e fare con molta più calma le faccende di casa che ha fatto mia madre per 40 anni lavorando. Cioè, 8, le 9, fa la schiava, sta dentro casa e non avere nessun contatto sociale, né nessun... No, sto solo dicendo che chi è casalinga oggi, al netto che abbiamo detto che non è disoccupata, eccetera, eccetera, non cerca lavoro, è semplicemente una privilegiata. Ma dove vedete? Non facciamo più, Matteo. Quale privilegio c'è? Alzarsi la mattina a fare i letti agli altri, fare la spesa, cucinare, ripulire, stare fino a sera dentro casa. Dov'è il privilegio? Il privilegio è che può fare tutto questo con molta più calma rispetto a quanto ha fatto. Sì, vabbè, come dire a uno schiavo, dice fallo con calma, tanto lì... Cioè, sta scherzando? No, lei lo dice a provocare? La casalinga non cerca lavoro, la casalinga può svegliarsi alle 9, può andare a fare le sue passeggiate. Sì, le sue passeggiate è un pifero, scusi, se deve occuparsi, sì. All'ora di pranzo deve cucinare, le passeggiate non ne fa tante. Poi, scusa, è un lavoro già condannato a una condizione di essere asociale? Lei lo farebbe? Lei si alzerebbe la mattina per andare a fare la spesa e cucinare per qualcun altro? Ma io lo faccio pur lavorando. Cioè, grazie, beh, il lavoro non è soltanto l'origine del nostro guadagno, il lavoro è la nostra occasione sociale, è la nostra via di fuga, è il nostro luogo in cui ci cimentiamo in relazioni sociali, abbiamo degli obiettivi, gestiamo le nostre frustrazioni. Senza lavoro una persona, ma non a caso un disoccupato, al di là del problema prettamente finanziario, si sente male, va in depressione, gli manca lo stimolo quotidiano di unirsi a una società che comunque lavora. Penso che lo stia dicendo lei per provocazione, perché ma quindi una casalinga non può essere... Si è autodistrutto, ma secondo me scherzava. Attilio, vediamo come la pensa lei. Pronto? Sì, l'ascolto. Buongiorno, io volevo portare l'esperienza di mia moglie. Io ho 48 anni, mia moglie ne ha 43. Da 13 anni è casalinga. È casalinga da 13 anni perché ha deciso di lasciare il lavoro alla prima gravidanza. Adesso abbiamo 3 figlie. La più grande appunto è circa tredicenne, però devo dire che la condizione di casalinga per scelta dei primi 10 anni, possiamo dire così, è diventata un po' una costrizione in questi ultimi 3, perché nonostante mia moglie abbia studiato, avesse una professione qualificata, purtroppo rimettendosi sul mercato del lavoro con 3 figlie e con le esigenze di conciliazione, con le esigenze di famiglia, non riesce a trovare nient'altro se non fare la donna delle pulizie, magari in nero, a degli stipendi bassissimi che andrebbero tutti a pagare qualcuno che gestisca poi i figli. Allora a questo punto preferisce rimanere casalinga fino a quando non riuscirà a trovare qualche cosa. Beh, certo, se l'alternativa è andare a pulire i cessi degli altri, meglio pulire i propri, questo è chiaro. È ovvio che, come diceva giustamente lei, la socialità di questa condizione è abbastanza pesante, perché da diversi anni mia moglie si lamenta abbastanza che alla fine i suoi interlocutori sono questi benedetti nonni, che noi peraltro purtroppo non abbiamo vicini, con cui può avere qualche scambio quando va a prendere i bambini a scuola. Cioè negozia dei piccoli interventi, esatto, a tampone. Piuttosto che le altre mamme con cui, con cui bene o male però si parla sempre delle stesse cose. Alla fine l'unica socialità è quella legata ai figli. Poi vedi Attilio, la sua è una visione realistica e anche comprensiva. Sua moglie ha fatto una scelta, probabilmente una scelta obbligata, se voleva gestire, allevare i figli, doveva starsene in casa, a meno che avesse avuto un lavoro talmente di alto profilo poteva permettersi tutta una serie di supporto. È chiaro, si parla bene, se uno si può permettere di tenersi due tate a casa, certo che è meglio lavorare, anche se il lavoro compensa tutti gli stipendi delle tate, in assoluto è meglio, ma evidentemente non bastava e quindi ci devo farlo io per forza, e adesso è difficile per lei rientrare nel mondo del lavoro. Certo. Allora, dottoressa Laura Linda Sabadini, queste due telefonate di segno opposto, però riassumono quello che è un punto di vista di chi osserva le casalinghe. Certo, su quest'ultima cosa voglio intervenire perché effettivamente c'è un problema serissimo, il momento del passaggio per la maternità. In Italia è molto penalizzante per le donne, le quali interrompono in un terzo dei casi il lavoro e non sempre riescono a trovarlo dopo la fase, diciamo, della crescita dei figli. Questo è un problema serissimo perché fa sì che poi appunto si diventi casalinga per forza, non casalinga per scelta, e è un problema che crea anche una difficoltà al reddito familiare, perché poi molte donne, oltre che volersi realizzare, vogliono anche guadagnare e essere autonome in questo senso. La seconda cosa però che volevo dire è il fatto che io non metterei in negativo la situazione delle casalinghe, cioè non possiamo vedere nel lavoro delle casalinghe soltanto gli aspetti, diciamo così, del lavoro puramente domestico, perché c'è un grandissimo lavoro che poi è il lavoro di rete, di organizzazione, di organizzazione gestionale, della diciamo un lavoro delle... gestionale, lei gestisce una piccola azienda, diciamo, per famiglia. Gestionale ma affettivo, non è solo gestionale, cioè è proprio la costruzione di rapporti affettivi, la gestione di tutto questo, che è una cosa meravigliosa, cioè che anzi... Oddio, lei ha una visione anche un po' romantica, la gestione dei rapporti affettivi. No, io ce l'ho perché penso che per esempio questo sia un aspetto che manca agli uomini, cioè sì. Portano avanti le donne casalinghe, le donne anche che non sono casalinghe hanno una quantità di ore che dedicano, che poi è la cura, che è un aspetto positivissimo della vita delle persone, perché se noi riduciamo tutto a quello che si diceva prima, veramente tutto può sembrare frustrante, invece noi avremmo bisogno in realtà del contrario. Ma questo andrebbe valorizzato, dottoressa, andrebbe valorizzato questo, diciamo, senso valorizzato? Che deve essere messo in un possibile corrispetto, per dire la casalinga non è soltanto una donna condannata a fare i lavori domestici. Assolutamente non lo è, cioè c'è tutta questa parte che la casalinga può svolgere, che le altre donne comunque svolgere, cioè qui escono fuori 50 miliardi di ore di lavoro familiare, di cura, di servizio eccetera, prodotte dalle donne in questo paese, è una cosa enorme, ma è una cosa enorme anche sì, ma come valore volontariato affettivo, sì, ma come non solo come valore economico. Ho capito, come dottoressa, affettivo. Le dico, ma se ci mettiamo davanti la parola lavoro, le chiedo, andrebbe valorizzato, cioè bisogna dare una quota a questo lavoro, o se no è come dire, anche le suore dal loro punto di vista fanno una contribuzione. Questo dicevo io, diciamo, no, io qui sto come Istat, non è che posso esprimere una posizione su questo, però su lei, questo. Lei però però mi porta sul campo queste cose, perché se no diamo una caratterizzazione che è tutta negativa e invece non va vista così. Aggiungerei pure una cosa, se noi vediamo il complesso delle casalinghe, poco più della metà non ha mai avuto esperienza lavorativa, e questo poco più della metà fa parte della parte più anziana, diciamo, di quelle donne che avevano vissuto diciamo l'essere casalinghe come un qualcosa, il destino della propria vita, in qualche modo la scelta della propria vita dall'inizio alla fine. Sono quelle che hanno investito nella famiglia. Metà. Hanno investito nella loro famiglia, certo, tradizionalmente. Il partito era espressione di un modello che nel passato era più radicato di quanto non sia oggi. Poi invece adesso abbiamo una situazione che è diversa, cioè che è quella di cui parlava, per esempio, si parlava prima, cioè di chi magari ha interrotto, ma che poi a un certo punto vorrebbe rientrare e non ci riesce. Però, dottoressa Sabatini, però, tutto questo va bene se noi concepiamo la società come tradizionalmente composta, una società basata sul matrimonio, sulla famiglia, che lei, essendo ricercatrice Istat, sa che comunque è qualcosa che sta sfaldando. L'idea che il matrimonio crei una famiglia indissolubile e che la famiglia indissolubile sia l'alveo in cui una donna si realizza anche facendo la casalinga, con tutto l'apporto affettivo, valoriale che dice lei, fa un po' acqua questo sistema. Valoriale c'è anche nelle donne che casalinghe non sono, lavorano e che quel lavoro lo portano avanti, non fanno lo stesso numero di ore delle casalinghe, ma quel numero di ore ha un valore enorme, anzi sono troppe, ne fanno anche troppe, al punto che pagano un prezzo altissimo, ma pagano un prezzo altissimo per un paese che ne ha bisogno e che avrebbe bisogno di investirci un po' di più su questo, su queste ore di cura. Oh, cioè, ma lo vedi che mi dà ragione. Quando io le dico come può essere valorizzato questo apporto? Valorizzato significa anche redistribuire queste ore, redistribuirle nella coppia e redistribuirle nella società. Ma se lei entra in merito, scusi, al rapporto fra gli esseri umani, ai sentimenti. Io entro anche nel merito al rapporto, perché farebbe bene a tutti fare più cura. Ma non può essere imposto. Saremmo tutti più equilibrati. Saremmo tutti più equilibrati se facessimo più cura. Capito, se ci fosse più scusi, attenzione. Scusi, ma lei fa la ricercatrice o la predicatrice? Mi scusi, perché che c'entra questo? No, scusa, lo dico in maniera bonaria. Io dico che se noi vediamo oggettivamente, no, che il carico di lavoro di cura è molto forte, perché questo sta succedendo, l'Italia è uno dei paesi dove il lavoro di cura è più forte sulle spalle delle donne. Okay? E questo è in dubbio, certo. Ecco, questo è in dubbio, dalle statistiche viene fuori. È anche uno di quei paesi dove si è investito poco sugli aspetti che riguardano i figli. No? Giustamente, i servizi sociali, questo significa redistribuire un po' di quella cura nella società, io intendevo nei servizi, abbiamo bisogno di potenziare tutto questo, perché questo rende più possibile poi alle donne e agli uomini, perché solo alle donne e agli uomini, di avere i figli che vogliono e di poterli crescere con maggiore libertà e con maggiore possibilità. La stessa cosa può avvenire se si ridistribuisce un po' anche all'interno della coppia, come in altri paesi è, perché noi stiamo migliorando, ma stiamo migliorando, dai dati viene fuori dell'indagine sull'uso del tempo, stiamo migliorando, ma ancora il 70% del lavoro di cura familiare è sempre assorbito, in particolare da parte delle però donne. Però questo mi dà atto che uomini. È un po' difficile poi tradurlo in delle norme, è un po' difficile, perché sì, possiamo fare un convegno, dire che gli uomini dovrebbero essere un pochino più attenti a quelle che sono delle operazioni, delle gestioni che hanno finora classicamente e drasticamente sempre occupato le donne. Però se volessimo schematizzare degli strumenti, dei correttivi al fatto che ci sono un numero grosso di casalinghe che comunque sono fuori dalla società, perché sono persone che non studiano, sono persone che non hanno più contatto con la società, un po' come la moglie di quel signore che diceva prima, e quindi è un po' difficile finirlo. Bisognerebbe trovare quali sono gli strumenti, questo le vorrei chiedere, mi fermo un istante e lo dare la linea, gli strumenti per poi fare in modo che questa idea, questa accezione, che per lei non è soltanto negativa, ma le do ragione, della casalinga, possa essere redistribuita in qualcosa che abbia una componente più moderna, diciamo, più attuale nella nostra società. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, stiamo cercando assieme alla dirigente di ricerca Istat, la dottoressa Linda Laura Sabbadini, cercando di capire un po' meglio cosa c'è dietro la ricerca sulle casalinghe in Italia, che ha dato varie interpretazioni, ma vedo che poi interpretare è positivo, è interessante, anche perché è un campione, secondo me, in fluttuazione, in cambiamento, in mutazione. Rimane uno zoccolo duro di casalinghe ancien régime, di vecchia data, quelle, chiaro, sono quelle che hanno investito nella loro vita familiare, perché tradizionalmente, culturalmente, geograficamente quello facevano. Esistono le casalinghe delle famiglie degli immigrati che ancora hanno un bel percorso da fare dal punto di vista dell'emancipazione femminile, e poi esiste un genere variegato di casalinghe, sono quelle che potrebbero continuare a farlo, ma se avessero strumenti anche di sussidio sociale più efficienti, lo farebbero magari con atteggiamento meno remissivo rispetto a quello che tradizionalmente hanno fatto le loro nonne e i loro genitori. Sentiamo alcune casalinghe, finalmente hanno chiamato. Diana, buongiorno. Buongiorno. Avete una visione un po' veramente retrograda. Io non mi sento una casalinga e lo sono assolutamente, così frustrata, come si direbbe, o sottomessa, assolutamente. Parli per lei, racconti la sua condizione, è una parte di questo retrograda. Parliamo per, ahimè, punti di vista, certo, di esperienze vissute o conosciute o viste, magari c'è stata una mutazione, ci dia qualche elemento per capire meglio. Allora, mi rendo conto di essere una privilegiata probabilmente, però io ho potuto scegliere di non lavorare, ma ho lavorato, quindi so cosa vuol dire. Ma perché era ricca di famiglia, non aveva problemi? No, ricca no, riusciamo a barcamenarci anche senza il mio stipendio, però io ho la fortuna di alzarmi veramente al mattino all'ora che voglio, vado a fare le mie camminate, leggo. E chi li fa i lavori in casa? Chi li fa? No, sì, va bene, ma i lavori in casa non richiedono ore e ore, voglio dire, quando ci dedichi quell'ora e mezza, 2 ore al giorno è più che sufficiente, e io ho una casa grande. Beh, guardi, scusi, cioè, 2 ore al giorno... Sono una che non ama cucinare, quindi metto in tavola quello che... Sì, mangiamo tutti i giorni, ci nutriamo adeguatamente. Come è composta? La sua famiglia come è composta? Ho un ragazzo di 18 anni e un marito, siamo in tre. Vabbè, un ragazzo sarà autonomo, quindi più è passato. Non deve accompagnarlo a scuola, non deve andargli a comprare le cose, è autonomo, quindi è una fase... No, anche se oggi ho fatto il taxi, ma va bene. Non devo, ma a volte lo faccio volentieri, senza problemi. Stamattina... Quindi lei ha due uomini che vivono fuori casa praticamente, tornano la sera e lei ha la sua giornata libera, dà una pulita a casa e poi fa quello che vuole. Poi faccio quello che voglio, certo, mi dedico al bricolage, i miei disegni, le mie cose, ma lo faccio con molta libertà, certo, magari... Se avessi un lavoro potrei spenderci di più nelle mie... Qualcuno lo aiuta in casa qualcuno settimanalmente, cioè viene a stirare. Una volta alla settimana. Viene la donna. Quindi è una casalinga con l'aiuto, viene a stirare, fare i lavori grossi. Va bene, Diana. Stirare no, perché so stirare solo io, gli altri non sono stirati. Va bene, esiste l'orgoglio di essere casalinghe. Diana l'ha espresso. Carla, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolta. Allora, anch'io sono una donna fortunata perché posso permettermi di rimanere a casa dal lavoro. Nonostante mio marito faccia i turni, è un macchinista, quindi con 2 figli a carico, perché uno di 23 e uno di 18, che nonostante l'età non sono ancora assolutamente autosufficienti, io posso permettermi comunque di gestire la mia giornata senza annoiarmi, avendo una bellissima vita sociale, e mi piace cucinare, sto tanto in casa e sto tanto anche fuori casa con le mie amiche. Abitiamo a Iseo, quindi ci sono i lidi dove posso giocare a tennis, abbiamo le montagne vicine, quindi posso d'inverno andare a sciare con tutta la mia famiglia. Tutto. Va bene, Paola. Faccio Pilates, amo fare giardinaggio. Tengo da conto i conti di casa, perché con uno stipendio e una piccolissima rendita. La rendita, che percentuale incide la piccolissima rendita? Diciamo? Guardi, la piccolissima rendita sarà un 15%, 10%. 10%. Lei aiuta in famiglia? Fa tutto da sola? Io non ho nessuno che mi aiuta. Quindi fa tutto. Io servo tutti i miei 3 uomini. Mio marito ha dei turni che partono dalle 3:30 del mattino. I figli sono ancora disoccupati? Ovviamente. Uno è studente, e l'altro pure, però uno è all'università e fa un piccolo lavoretto estivo, e l'altro 18enne assolutamente è studente, lei è meno brillanti. Se lei potesse, senza lamentarsi di sì, nulla, se potesse, Paola, Carla, avrebbe mai fatto un lavoro che anche... un attimo, aspetti, io ho lavorato come contabile amministrativa per 20 anni, finché non sono rimasta incinta del secondo figlio, dopodiché i turni di mio marito, una serie di spese che anche andare a lavorare, facevo un part time quando mi sono sposata, costa anche andare a lavorare, ti devi vestire, ti devi tenere in un certo modo. Vabbè, se l'alternativa è vestirsi come una poraccia, scusi, scusi, io riesco a lavorare e vestirmi bene, che sta a casa vestito, sì, come poraccia. No, ma guarda che io non mi vesto male neanche a casa, no, però vabbè, non ho la divisa, diciamo, no. L'abito per andare in sì, vabbè, vedi, sono punti di vista, ragazzi. Paolo, io rispetto il suo, per lei capisca, mi si stringe lo stomaco a sentirla, dico, ma come uno deve considerare, certo, io magari lavoro, se anche a paro mi permette di avere una vita sociale splendida, riesco a lavorare, piuttosto stare a casa. No, io ho una vita sociale splendida stando a casa. Va bene, felice, benissimo Paolo, mi sta bene. Allora, ci fermiamo ancora un istante, abbiamo sentito le ascoltatrici e poi riprendiamo con la dottoressa Laura Linda Sabadini su quelli che poi sono i commenti rispetto alle testimonianze delle nostre ascoltatrici. Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, dottoressa Laura Linda Sabadini. Abbiamo sentito però un campione casalinghe, sono contente di farlo. Sì, esatto. Sono quelle che per loro è una realizzazione esistenziale, tutte soddisfatte, va benissimo. A me fa star male, ma è un limite mio sentire che è meglio stare a casa, vestirsi di messi, che andare a lavorare per doversi comprare i vestiti per lavorare, però ognuno ha il suo punto di vista. Ognuno, diciamo, certo, fa un grande scelte rispetto, che crede, e questo in effetti emerge anche dalla nostra ricerca, nel senso che c'è una percentuale di casalinghe che arriva a un terzo che è molto soddisfatta della propria situazione, proprio soddisfatta della vita. È una percentuale che è un po' più bassa. Quelle che hanno già lavorato, mi sembra di aver capito, che era un lavoro che loro non piaceva. Quelle che lavorano, le occupate, sono più soddisfatte delle casalinghe rispetto alla situazione complessiva della vita, però ci sono le casalinghe particolarmente soddisfatte, come per esempio hanno espresso, no, le ascoltatrici che sono intervenute. E questo va detto, perché non è affatto detto, anche si sta trasformando il modo di essere casalinga. Una cosa che per esempio abbiamo notato che è molto interessante è che anche la composizione del lavoro di casalinga è mutata. Mentre in passato si dava molto più peso alla parte del lavoro domestico, adesso si dà molto peso alla parte delle relazioni, della cura, che è la parte ovviamente più stimolante, più ricca del lavoro della casalinga e del lavoro di tutte le donne, anche degli uomini. Organizza la vita sociale anche degli altri membri della famiglia, quello che organizza, esatto, le cene, organizza le vacanze. La vita sociale, cioè, poi non necessariamente non c'è. Noi abbiamo che rispetto alle donne lavoratrici la vita sociale è più bassa, però c'è, anche le casalinghe vanno a teatro. Certo, quelle che sono di titolo di studio più basso ci vanno di meno, utilizzano meno internet, cioè su tutti questi aspetti. Vabbè, diciamo, andranno a ballare, faranno altre cose. Vanno anche a ballare. L'altra cosa che volevo dire è che la casalinga però non è una privilegiata, no? A proposito di una delle telefonate che c'era stato, c'è un dato che emerge chiaro, che noi abbiamo un 10% di casalinghe che è in povertà assoluta, un 20% tra le giovanissime, cioè le giovani, diciamo fino a 34 anni, sono ancora più povere, perché tra queste ci sono anche le immigrate, e soprattutto la metà delle casalinghe ci dice che ha risorse scarse o insufficienti come reddito, diciamo come valutazione che dà del reddito familiare, che ovviamente è una percentuale molto più alta delle lavoratrici. Le lavoratrici non arrivano a questi livelli. Sulle immigrate, proprio che abbiamo fatto varie trasmissioni, soprattutto quelle che vengono da aree del Nord Africa, sono in condizioni di quasi schiavitù, non si può definire lavoro di casalinga. attenzione, le immigrate diciamo che si trovano in questa situazione, non è solo Nord Africa, ci sta anche l'Albania. Anche le albanesi e marocchine sono in una situazione simile perché hanno dei tassi di occupazione femminile molto bassi, dovuti anche a modelli culturali diversi. Ma molte nemmeno portano i figli a scuola perché non le fa uscire di casa il marito, stanno sigillate. Però guarda, la maggioranza non è così, La maggioranza sia albanesi sia delle marocchine mandano i figli a scuola e anzi questo sta diventando un elemento anche di riscatto per queste donne importante, cioè queste cose che dice esistono assolutamente ma cominciano a essere molto più limitate di quanto non si pensi. Abbiamo fatto una ricerca molto interessante sull'integrazione dei bambini all'interno delle scuole dove vengono fuori dei risultati molto importanti sui bambini marocchini e anche sugli albanesi, nonostante appunto diciamo si abbia un po' l'immagine che essendo queste diciamo le due comunità musulmane più diffuse, no? più grandi in Italia, perché da noi i musulmani sono fondamentalmente marocchini o albanesi a differenza degli altri paesi, quindi si potrebbe pensare che chissà quanto è diffusa questa chiusura, in realtà abbiamo dei risultati molto importanti sui loro bambini. Questo è importante, vuol dire che fra un paio di generazioni non si porrà più almeno quel tipo di problema, a meno che poi la storia fornisce esempi strani, l'integralismo peggiore sta rinascendo proprio nelle persone che apparentemente sembravano integrate, guardi il fenomeno in Inghilterra, guardi il fenomeno in Francia, però non è adesso, riguarda questo tipo di nostra osservazione. Sentiamo Paola. Paola, buongiorno. Paola. Senta. Io faccio parte delle casalinghe magari, nel senso che io non ho mai potuto permettermi l'idea, la gioia di fare la casalinga. Ho cresciuto due figli lavorando, dividendomi tra lavoro e casa. Nessuno mi ha mai potuto aiutare, purtroppo, per motivi di famiglia, perché comunque mia madre o mia suocera erano persone che lavoravano e il sogno di poter avere una vita sociale, cioè voi parlate di vita sociale che non hanno certe casalinghe, ma veramente, cioè tutte le donne, io ho 62 anni, signor Nicoletti, sto lavorando in Francia perché in Italia per me non c'erano più possibilità, per cui ho fatto la scuola a Frantone e la Spezia tutte le settimane. Quando io arrivo a casa, secondo lei, pur non avendo più figli perché sono grandi, sposati per i fatti loro, lei crede che io abbia molto tempo di una vita sociale? Ma io il Pilates me lo sono sempre sognato, il fatto di poter frequentare dei corsi di pittura, di andare a dei corsi di letteratura che mi sarebbero piaciuti, ma per me è una chimera. Bisogna capire, sono punti di vista molto personali, è difficile commentare poi i gusti degli altri. Non deve, se lei tutto sommato il suo viaggio fra la Liguria e la Francia è sostituibile a starsene a casa, alzarsi, andare a fare Pilates e giocare a canasta. Lei può dire preferisco comunque muovermi, vedere persone diverse, cambiare aria, sentirmi attiva, tornare a casa, essere stanco, ma non fare vita sociale. Io dico non ho nulla a che fare con le casalinghe, non preferisco tornare a casa, essere stanco e non aver voglia di uscire, che averci giornate interminabili davanti, come i giorni di festa, di vacanza, in cui sì, può andarti a prendere l'aperitivo, fare l'uscitina, la passeggiatina, ma non mi sento stimolato, ma è un punto di vista naturalmente. Laura, buongiorno. Sì, eccomi. Ma io devo dire che mi sento abbastanza in linea con la persona che mi ha preceduta, nel senso che io ho due lavori, in parte perché non posso, non potrei stare a casa, ma in parte anche perché non mi vedrei a casa, senz'altro. Le piace però, fare i suoi lavori? La mia piccola esperienza. Ho conosciuto diverse persone che erano casalinghe, dove, lo ricordo, voi per casalinghe avete detto persone che non cercano lavoro. Che no, la casalinga intesa come campione dell'Istat è una persona che non cerca lavoro alternativa a quello di stare in casa. Esatto. Ecco, e allora a maggior ragione mi dico sono persone che non hanno, ovviamente escludo il discorso degli immigrati che è molto diverso. Sì, parliamo degli italiani, perché per adesso è più facile. Però per il resto direi che io sento di dire che c'è una buona fetta di casalinghe che se la passa molto bene. E di nuovo mi viene da dire che io ho conosciuto mamme che portavano i loro bambini all'asilo, poi andavano a prendere il loro caffè. Invidia quel tipo di vita, però questo è il discorso. A lei piacerebbe fare quel tipo di vita? Allora, sì o no? Sì o no? Sta per chiudendo. Come sono fatta, per le mie radici, per come, per il bisogno che ho anche di identificarmi in quello che faccio, no. E allora, è questo il discorso, è molto semplice. Fanno quello, ci sono una serie di casalinghe, hanno detto, non lo sentono come una condanna, a loro piace portare i bambini a scuola, fare la passeggiatina con le amiche. Altre fa schifo questo tipo di vita e non lo farebbero mai. Il mondo è bello perché vario. Alla prossima.